Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore, soprannominato Bombolino, a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi, in questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, parleremo della battaglia che contrappose fascisti e arditi del popolo a Sarzana, in Lunigiana. Ancora nella primavera del 1921, la Lunigiana appariva una zona di difficile penetrazione per il fascismo e che, rispetto alle regioni circostanti, era più debole e meno organizzato. Poi, dopo il 6 marzo 1921, si svolse a Genova il primo congresso regionale dei fasci di combattimento. Sezioni del fascio sorsero ovunque nella regione, mentre le violenze e gli incidenti diventavano sempre più duri e frequenti, con i fascisti che bastonavano oppositori politici e devastavano circoli, camere del lavoro, cooperative e società di mutuo soccorso, soprattutto grazie alla convivenza goduta dai fascisti nei reparti della Guardia Regia, nei funzionari di polizia, nei quadri intermedi dell'esercito, nei carabinieri e grazie anche all'appoggio della stampa borghese. I quotidiani liguri, come il Corriere Mercantile di proprietà della famiglia Piaggio e il Secolo XIX di proprietà dei Perrone, cui Mussolini era debitore per i finanziamenti ricevuti per il suo giornale, il Popolo d'Italia si prodigarono molto a minimizzare le violenze dei fascisti e allo stesso tempo accusare socialisti e comunisti denunciando le cosiddette violenze rosse per indirizzare l'opinione pubblica. Soltanto a maggio, però, si erano costituiti i fasci di Massa, di Carrara, di Aulla, di Sarzana e di Porto Venere. La città di Sarzana veniva dipinta dal colonnello dei carabinieri Nestore Cantuti, in una relazione destinata al prefetto di Genova, un pericoloso covo di sovversivi di ogni genere, dove il sindaco Pietro Arnaldo Terzi veniva descritto come elemento pericoloso nella mente più che del braccio, per le sue indubbie capacità oratorie di principi rivoluzionari antimilitarista non dei più scalmanati. Ed ora ascoltiamoci una canzone dedicata agli arditi del popolo, figli dell'officina, della banda Bassotti. Il 12 giugno 1921 i fascisti toscani iniziarono le spedizioni punitive già sperimentate in altre città d'Italia a Sarzana. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1921, in occasione dell'inaugurazione del gagliardetto della sezione fascista di Sarzana, 12 squadristi di massa invadero la sede della cooperativa socialista devastandola. Nel pomeriggio del 13 arrivarono su un camion 32 fascisti da Carrara per fare una cosiddetta spedizione punitiva. La popolazione reagì e si scontrò con i fascisti, alcuni dei quali rimasero feriti, mentre un operaio estraneo ai fatti di nome Luigi Castardelli, che stava passando in una via con il figlio, fu colpito a morte dai fascisti. La sera i fascisti lasciarono Sarzana e, giunti a Carrara, furono fermati e identificati e al comando della spedizione risultarono essere Renato Ricci e il fratello Umberto. Sempre il 13 giugno, 19 militari passarono su un autocarro da Sarzana e furono scambiati per fascisti e fatti oggetto di colpi di arma da fuoco. Infatti, contro le possibili incursioni fasciste, si stava organizzando un corpo di difesa armata, come viene riportato sul giornale La Fiamma del 23 e 27 luglio. Il mattino dello stesso giorno, gli antifascisti di Sarzana circondarono la casa del segretario della sezione del fascio, Tancredi Revelli, che reagì aprendo il fuoco dalla finestra, ferendo due uomini e una donna. La sera i fascisti, reduci da una spedizione punitiva a Pontremoli, furono perquisiti e il segretario del fascio di massa arrestato. Successivamente a luglio si verificò un episodio assolutamente anomalo rispetto al panorama nazionale. La forza pubblica si schierò a difesa della popolazione di Sarzana contro i fascisti. Guido Jürgens, capitano dei carabinieri, difese Sarzana insieme agli arditi del popolo. E ora sentiamoci un pezzo di Woody Guthrie, All You Fascists. Put it there, boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, all you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. There's people of every nation side by side, marching across the fields where a million fascists died. You're bound to lose, you fascists bound to lose. All of you fascists bound to lose. Yes, all of you fascists bound to lose. Yes, all of you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose. I said, all of you fascists bound to lose. Il 17 luglio circa 150 fascisti su autocarri partirono da Carrara ed arrivarono a Fos di Novo, dove devastarono la casa del sindaco, la casa parrocchiale e quelle di altri cittadini. Poi si accanirono contro la popolazione di Monzone, uccidendo un ferroviere ed un operaio e ferendo altre 8 persone. Poi assaltarono e distrussero la locale cooperativa. I fascisti poi proseguirono verso Aulla, dove bastonarono a sangue l'anarchico Romini. Continuarono quindi il loro raid a Santo Stefano di Magra, dove terrorizzarono la popolazione, rapinandone le abitazioni e infine uccisero un giovane di 26 anni. Gli squadristi uccisero a freddo anche Rinaldo Spadaccini, mentre questi tornava a casa dalla pesca pomeridiana, mentre il suo compagno scappò all'agguato e allertò la popolazione. Arrivarono poi a pochi chilometri da Sarzana, in località Olmo. A Sarzana si erano appena costituiti gli arditi del popolo, che avevano istituito un posto di blocco in quella località. I fascisti si divisero, ma gli arditi del popolo riuscirono a isolare un gruppo di 12 fascisti, tra cui Renato Ricci, il loro capo. Li catturarono senza colpo ferire, consegnandoli poi ai carabinieri, che li imprigionarono a Sarzana. Il 18 luglio le organizzazioni sindacali di La Spezia proclamarono lo sciopero generale per permettere ai lavoratori degli arsenali di andare a Sarzana per partecipare alla sua difesa. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, una squadra di 600 fascisti, tutti armati, provenienti da Firenze, Pisa, Lucca, Viareggio, Massa, Carrara e Pescia, guidati da Amerigo Dumini, uno degli assassini di Giacomo Matteotti nel 1924, e Umberto Manchelli, cercarono di raggiungere Sarzana per liberare Renato Ricci e gli altri fascisti arrestati. Una squadra di arditi del popolo, rinforzata da cittadini armati, raggiunse Ameglia, dove si erano accampati una parte dei fascisti. Lo scontro fu durissimo e si risolse con la sconfitta dei fascisti, che cercò scampo in direzione di La Spezia. Gli abitanti di Sarzana nel frattempo si mobilitarono. Il sindaco socialista della città, Pietro Arnaldo Terzi, presiede un comitato di difesa di cui fanno parte le forze politiche di sinistra. Pattuglie di volontari organizzati dagli arditi del popolo di Sarzana, in cui militavano anarchici, comunisti, socialisti senza partito e repubblicani, affiancati da altri 150 arditi del popolo giunti dalla Spezia, muniti di bracciali rossi, presidiarono la città e le campagne circostanti, preparandosi ad accogliere in armi le squadre fasciste capitanate da Dumini. Il piano di difesa degli arditi del popolo prevedeva 3 posti di blocco per la difesa avanzata di Sarzana nelle località Lame a nord, Prati di Vezzano Ligure a est, sull'argine del torrente Pomignola al confine tra Liguria e Toscana. 11 posti di blocco intorno alla città per la difesa ravvicinata, situati a Fonte di Magra, Fortezza di Sarzanello, Viale Mazzini verso la stazione, San Michele, Fonte Bettino, Porta Parma, Rione Trinità e Olmo, sulla strada per Aulla. Altri 4 posti di blocco erano disposti all'interno della città, oltre a reticolati, barricate. Inoltre, sul campanile delle chiese e sui tetti delle case vigilavano le vedette forniti di esplosivo e mucchi di pietre. Il comitato di difesa era riunito nel Molino Fabbricotti. Nel frattempo sul giornale fascista Il Popolo d'Italia era apparso un articolo di Mussolini in cui incitava i suoi squadristi a dare una lezione a Sarzana. A Roma, in Parlamento, mentre l'aggressione fascista è in corso, si sta discutendo il programma di governo di Vanoni Bonomi, designato dal re quale successore di Giolitti. Il sindaco socialista di Sarzana telegrafò al presidente del gruppo parlamentare socialista: comunicate governo che imponente spedizione fascista minaccia Sarzana, non dicasi autorità non preavvisata. E ora ascoltiamoci un'altra canzone cantata nel periodo di cui stiamo parlando, Inno alla rivolta, nell'esecuzione del gruppo Zeta. Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente, per di fata tu. Già spunta l'alba minacciosamente, per di fata tu. Urla l'odio, la fame ed il dolore, da mille e mille facce scheletri, suo schianto redentore. canta col suo schianto redentore, la dinamite. Siamo pronti e sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Per le vittime tutte dimenticate, là nel fragor dell'epico rimbombo, compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. Compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Alle 5 del mattino la colonna fascista arrivò in vista della stazione ferroviaria di Sarzana e ne occupò il piazzale. Il capitano dei carabinieri Guido Jürgens, con una pattuglia di 12 uomini, bloccò la colonna fascista. Il comitato di difesa, che si era costituito a Sarzana, aveva avvertito le autorità di pubblica sicurezza e i carabinieri che se i fascisti fossero passati avrebbero ritenuto responsabili il governo e le autorità allo stesso modo dei fascisti. Ma il capitano delle guardie regie Guido Siracusa non intervenne nonostante avesse a disposizione un centinaio di uomini. Dumini disse al capitano Jürgens che la sua colonna era soltanto l'avanguardia di 2000 camicie nere e che intendevano liberare immediatamente Renato Ricci e gli altri squadristi carraresi consegnati ai carabinieri dagli arditi del popolo. Volevano che gli fosse consegnato il tenente dei carabinieri Nicodemi, colpevole di aver schiaffeggiato il Ricci, cosa non vera, e di avere mano libera per 3 giorni a Sarzana per liberarla dagli arditi del popolo. Il capitano Jürgens rifiutò, cercando di spiegare agli squadristi che, data la presenza degli arditi del popolo e la determinazione della cittadinanza, un'eventuale marcia all'interno dell'abitato si sarebbe trasformata in una trappola. Un fascista, durante la trattativa, sparò sul piazzale della stazione, colpendo a morte un giovane caporale, Paolo Diana, ed un altro carabiniere venne ferito. Jürgens quindi ordinò il fuoco. Tra i fascisti che si sbandarono ci sono alcuni morti e diversi feriti. I fascisti allora fuggono, inseguiti dagli arditi del popolo e dalla popolazione, la quale non esita a farsi giustizia delle angherie subite fino ad allora. 18 fascisti vengono uccisi e una 30 feriti. Dopo questi fatti, però, diversi arditi del popolo vengono arrestati e accusati dai giornali borghesi di aver torturato e barbaramente ucciso i fascisti. Gli arditi del popolo di Sarzana, però, avevano precedentemente pubblicato un ordine del giorno in cui si poteva leggere: i prigionieri o i feriti catturati in conflitti o in situazioni anormali dovevano essere perquisiti, disarmati, lasciati in possesso del loro denaro, indumenti e carte personali, salvo quelle danneggianti il proletariato, e per nessun motivo dovranno essere bastonati, insultati o seviziati. Se possibile, essi verranno consegnati all'autorità giudiziaria, altrimenti verranno condotti fuori dalle nostre linee. Da notare che il capitano Jürgens era ritenuto filofascista dalla popolazione del luogo, perché si era distinto nelle azioni di sgombero e di perquisizione delle fabbriche occupate di La Spezia nell'estate del 1920. Quindi il comportamento del capitano non è determinato dalla sua connotazione politica, ma semplicemente dall'aver valutato la forza, la determinazione e l'organizzazione degli arditi del popolo di Sarzana.

uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua diozia. 99 fosse tu, antifascismo militante senza tregua, la sola costante in culo alla gente che pensa incoerentemente. Per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Stammi lontano, dico vattene a cagare. Dico se mi incontri per la strada incomincia a scappare. Tieni bene a mente, dico non dimenticare. Per chi tocca i compagni so cazzi da cagare. Mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. E allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. Dopo tanti anni di infamie e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Poi l'intera Lunigiana venne dichiarata dal prefetto di Massa territorio insorto. E posti di blocco vennero istituiti ai confini tra la provincia di Massa e la Liguria. Ma la Lunigiana, ancora controllata dagli arditi del popolo, divenne rifugio per molti antifascisti braccati dalla polizia e dalle camicie nere. Sarzana venne normalizzata, tra virgolette, come dissero le autorità di governo, ed occupata militarmente dalle cosiddette forze dell'ordine ed in seguito dai fascisti solo un anno dopo, ma nelle campagne e sulle montagne si organizzarono gruppi di combattenti antifascisti. Successivamente l'ufficiale dei carabinieri Guido Jürgens venne posto in aspettativa per poi essere nel 1932 rimosso. Il sindaco Terzi, che si era schierato con la popolazione di Sarzana contro i fascisti, pagherà questa sua scelta con una vita fatta di soprusi, fino alla deportazione e alla morte che avverrà in Germania durante l'occupazione nazista dell'Italia. Per chi volesse approfondire la storia della battaglia di Sarzana è possibile reperire diversi libri. Di Pierluigi Gatteschi, Io e Cencio, il movimento degli arditi del popolo dal 1919 al 1922, edizioni DEA. Di Andrea Ventura, I primi antifascisti. Di Pietro Arnaldo Terzi, Vita e morte di un sindaco antifascista. Di Giuseppe Meneghini, La Caporetto del fascismo. Di Luigi Monardo Faccini, Un poliziotto per bene. Di Marco Rossi, Arditi non gendarmi. C'è anche un film che racconta la battaglia di Sarzana contro i fascisti ed è Nella città perduta di Sarzana, uscito nel 1980 per la regia di Luigi Faccini ed è liberamente visibile su YouTube, anche se è fortemente schierato con la componente comunista degli Arditi del Popolo. Ascoltiamone un piccolo estratto. Fucili! I fucili del sindacato ferrovieri non sono ancora arrivati da Pisa e non sappiamo quando arriveranno. Ed è solo con questo che possiamo castigare Ricci e i suoi. Ancora una cosa. Bisogna che tutte le bocche da fuoco che ci sono in città vengano messe a disposizione degli arditi del popolo. Ma che dici? Agli uffici del Dazio ci sono delle buone pistole. Prendiamo quella intanto. Venite con me! Non farlo, Nello! Non puoi! Quartiere, non puoi! Ti diffido! Il giorno 18 luglio 1921. Il sindaco di Sarzana, avvocato Arnaldo Terzi, avvertì con un telegramma il gruppo parlamentare socialista. Comunicate governo che spedizione fascista grande stile minaccia Sarzana. Nostra delegazione raggiungerà Roma in serata. Non dicasi poi autorità non preavvisata. Dovete dire ai compagni che qui ci sarà un bagno di sangue se non si prenderanno provvedimenti tempestivi. Ciao, Arnaldo. Buona fortuna. Non voglio colpi di testa. Giuliani, tu sei il presidente del comitato di difesa. Perciò sei il responsabile dell'uso che faranno delle armi, comunisti, arditi del popolo. Anarchici, volontari di qualsiasi fede politica. Mettetevi in testa che Sarzana deve solo difendersi. Delfini, Ramella, vi siete già sostituiti ai carabinieri una volta. Che non succeda mai più. Io l'ordine che la città smobiliti. E dovrà farlo da questo momento. Cominciando ad allontanare tutti quelli che non hanno residenza qui. Non voglio più vedere in giro gente armata. Do tempo fino alla mezzanotte di oggi. Ai fascisti lo deve fare questo discorso, non a noi che siamo costretti a difenderci. Noi non smobiliteremo fino a quando le forze dell'ordine non ci avranno dimostrato di essere in grado di difendere Sarzana dai fascisti. Ha ragione! Via i fascisti! Qui non si mette a piede nessuno! Fascisti, carabinieri, via! Il 19 luglio, la cattura di due staffette fasciste da parte di una pattuglia di arditi del popolo aveva rivelato la presenza di fascisti spezzini sulle colline che sovrastano al di là del fiume Magra le campagne di Sarzana. Ma gli animi si accesero ancor più quando i fascisti spezzini in fuga uccisero a sangue freddo un vecchio contadino inerme. Concludo rilevando che appare evidente che prima che il fascismo riuscisse ad avere il totale appoggio di tutte le forze statali, era possibile organizzandosi militarmente, senza settarismi, sconfiggere lo squadrismo e riuscire ad ottenere un atteggiamento di alcune forze dello Stato non completamente condiscendente alla violenza fascista.